Sbagliare un tiro di balista, suonare prima dell'Ateneo. Forse sì, forse no, oh. Almeno Gwen ha sempre ragione. Quante domande le farei, hey, dimmi di sì, dimmi di no, Ma c'è una rotta da rifare perché non gli piace più, E a volte ho l'ansia che mi sale, Se c'è una cima da cazzare proprio in mezzo al grande blu, il vento sembra tutto uguale, Io mi fido più di Gwen che di me, che dei miei, degli dèi. Presto che non resisto, sansofronisco. Scusa se insisto, questa è la rotta che io preferisco. È un chiodo fisso, è un pretesto per andare a palo. Questa non è mica lì, fa sciabole room sulla cassa dritta. Ci sta portando a nebbie fitta. Ti giuro se ci penso la mia testa suona. Mannaggia, soffronisco. Lui sta fumando e tutti seri, ognuno poi bestemmia un po'. Forse sì, forse no, Siamo salpati l'altro ieri, ma vuol virare verso sud. E c'è una cima da cazzare proprio in mezzo al grande blu, E quindi ho l'ansia che mi sale. Quanto sale? Io mi fido di più se parti, però per me da qui via. Presto che non resisto, sansofronisco. Scusa se insisto, questa è la rotta che io preferisco. È un chiodo fisso, è un pretesto per andare a palo. Questa non è mica lì, fascia. La cassa dritta ci sta portando a nebbie fitta. Ti giuro se ci penso la mia testa suona. Mannaggia, soffronisco. Mannaggia, soffronisco. Soffronisco. Mannaggia, soffronisco. Vorrei spiegarti quanto mi manca il polpo ubriaco. Rompo una cassa eppure sto zitto, sansofronisco. Questa non è mica l'IFA, sciabole rum sulla cassa poppa. Stiamo tornando con una gallina zoppa. Ti giuro se ci penso la mia testa suona, l'odia soffronisco.